Viva Voce con Alessio Maurizi. Buona giornata, gentili ascoltatori, 9 e 7 minuti. Dunque, come sapete, la CAI, la compagnia aerea italiana, nata apposta appositamente dall'unione di 16, poi diventati 18 imprenditori italiani per rilevare quel che resta dell'Alitalia, si è ritirata dalla trattativa coi sindacati. Anche qui, se avete sentito telegiornali, letto giornali, ascoltato i nostri giornali radio, sapete anche che il governo accusa pesantemente e direttamente la CGIL e le associazioni dei piloti di avere fatto fallire questa trattativa. In effetti sono loro che si sono ritirati dal tavolo. Un'accusa che però non arriva soltanto dal governo e quindi dalla maggioranza di centrodestra, ma anche dal fronte sindacale, che si era invece reso disponibile ad accettare le condizioni poste dalla CAI per investire nel rilancio di Alitalia. 800 24 00 24, il numero verde per poter intervenire in diretta, come sempre ogni mattina. Adesso che cosa succede? Ci sono apparentemente due strade. Naturalmente quella evocata ieri un po' da tutti, del fallimento, oppure cioè dei libri in tribunale, la chiusura, la vendita pezzo a pezzo di quel che resta dell'Alitalia per cercare di pagare i creditori, operazione che sarà condotta dal commissario di governo Fantozzi, oppure l'arrivo in extremis del cavaliere straniero, di una compagnia aerea straniera. Già si parla di Lufthansa o di un ritorno di Air France o British, qualcuno che a queste condizioni possa essere interessato, però davvero in pochissimo tempo, ad intervenire per rilevare l'Alitalia. C'è anche un'ipotesi C, se vogliamo, quella di una riapertura del tavolo della trattativa, anche se pare molto difficile, ma già si parla sui giornali di qualche canale ancora aperto. Indiscrezioni rivelano di una telefonata tra Colaninno e Epifani, con lo stesso Berlusconi in campo. Facciamo però un passo indietro, torniamo alla giornata di ieri. Fabrizio Solari, segretario confederale CGIL, buongiorno. Lei naturalmente ha attraversato tutte le trattative che hanno riguardato l'Alitalia in queste settimane. Ieri che cosa è successo? Perché è saltato il tavolo? Noi sappiamo, siamo rimasti al fatto che qualche passo in avanti la CAI l'aveva fatto rispetto alle vostre richieste. In particolare gli esuberi erano diminuiti e il salario era aumentato. Però non è bastato. Non è bastato perché probabilmente è sbagliato queste ultime battute, in modo particolare il metodo con cui si affronta la questione. Io parlo per la CGIL, ovviamente, non posso interpretare l'opinione di altri. Noi abbiamo detto con grande chiarezza, e poi l'abbiamo anche scritto, che confermavamo la nostra intesa sul piano industriale, diciamo, sui contorni della gestione di questa vicenda, dal perimetro aziendale, gli esuberi e quant'altro, e non è affatto un impegno, come dire, non pesante, che confermavamo quel che avevamo detto e quel che avevamo convenuto sul contratto dei lavoratori di terra. E qui c'è stato già un primo problema, perché nella versione che ci è stata recapitata ci sono questioni diverse da quelle che abbiamo concordato. Diverse in che senso? Parliamo esplicitamente, sennò la gente non ci capisce. Il contratto dei lavoratori di terra, che doveva avere un'invarianza di salario. Esattamente, un'invarianza salariale, avendo compreso anche la nostra controparte che i lavoratori con 1.200-1.300 euro al mese non potevano subire penalizzazioni. E invece avete trovato delle variazioni su questo? Abbiamo trovato delle variazioni, qualcuno le attribuisce a sviste, però sono sviste macroscopiche e che non si dovrebbero fare in situazioni come queste. Quindi non restava... No, prego. No, stavo dicendo, se una parte di stipendio viene conglobata in un nuovo istituto e viene reso assorbibile, significa di fatto che l'invarianza non c'è, perché per quei lavoratori significa che per non so quanto tempo non avranno nessuna dinamica retributiva. Ora, ripeto, stiamo parlando di quei lavoratori di fascia medio-bassa del salario. Quelli di cui, peraltro, devo dire, Solari, si è parlato forse di meno, si è parlato di più degli assistenti di volo, dei piloti, e invece di questi, che o anche di quelli che sono comunque destinati a perdere il lavoro, a rimanere fuori perché per varie ragioni non rientrano nel piano. Ma questo è un altro discorso ancora. Saliamo la scala allora. Dove erano i problemi più grossi? I problemi più grossi stanno, a mio parere, guardi, sembra un'assurdità a questo punto, ma la penso così, sono esattamente nel metodo, nel senso che un'operazione di questo tipo, di questa portata, con questo livello di complessità, la si fa, per quanto ne capisco io, ricercando il massimo del consenso, anche perché Alitalia, se sarà un'azienda di servizi, sarà un'azienda in grado che dovrà fornire, diciamo così, il massimo dell'attenzione al cliente se vorrà vivere. Un'operazione di questo tipo non la si fa a schiaffi, la si fa ricercando il consenso. Naturalmente, lo dico io per primo, nessuno può pensare, neppure i lavoratori di Alitalia, che nulla cambi mai e che tutto può continuare come sempre. Occorre essere coscienti che c'è una fase nuova, occorre essere disponibili ad una discontinuità, ma occorre anche che vengano preservate alcune questioni fondamentali, la prima delle quali è il rispetto del lavoro. Naturalmente ieri dopo l'annuncio alle 4 e pochi minuti del ritiro della CAI dalla trattativa, a Fiumicino in particolare, dove c'erano i presidi dei lavoratori, abbiamo visto i lavoratori esultare. Qualcuno ieri in conferenza stampa del suo segretario Epifani, un qualche giornalista, evocava la marcia dei 40.000 e vi chiedeva se non potesse ripresentarsi, ma naturalmente non è questo il caso, cioè i lavoratori dell'azienda che sconfessano il sindacato. Quello successe allora per quanto riguardava la Fiat. Adesso però mi pare la situazione sia invertita. Avete sicuramente fatto quello che una parte dei lavoratori dell'Alitalia si aspettavano, però c'è sicuramente anche il resto del paese a guardare. Non temete di fare, insomma, avete fatto andare via il Franz, adesso fate andare via la CAI, che cosa vi aspettate adesso? Perché esultavano quei lavoratori? Cosa si aspettano di positivo se non la perdita del posto di lavoro e il fallimento? No, guardi, io siccome in quella conferenza stampa c'ero anch'io e qualcuno mi ha fatto una domanda specifica sulle esultanze, diciamo così, ho detto ieri, e non ho difficoltà a ripeterlo perché lo penso realmente, che quello spettacolo a me personalmente ha gelato il sangue, nel senso che dimostra che evidentemente ci sono aree dell'azienda che ancora non hanno compreso qual è la gravità della situazione. E questo è un problema, quindi nulla, come dire, non ho nulla di più da dire circa questi episodi, se non che sono totalmente sbagliati e dimostrano che c'è. Su questo è stato chiarissimo. Detto questo, ripeto, io devo parlare per me. La CGIL ha fatto, diciamo così, un bel tratto di strada in questa trattativa. Ha condiviso e confermato la condivisione di tutto ciò che lei riguarda in termini di responsabilità, ha posto un problema serio a nostro parere, cioè che c'è un'area, stiamo parlando di quella del volo, nella quale la stragrande maggioranza dei sindacati che rappresentano quei lavoratori è stata mal coinvolta e comunque non era trovato un punto di intesa con l'azienda per il futuro. Però c'è un problema. Noi abbiamo posto un problema, quello di provare ad allargare questo consenso. Non abbiamo detto no all'accordo. Cioè, in sostanza, mi sta dicendo Solari che avete tentato di fare anche un po' da pontieri tra gli altri confederali e gli autonomi e le associazioni dei piloti. Sì, però ecco, vorrei provare. Però un attimo, perché dobbiamo anche chiarire agli ascoltatori che quante sono le sigle sindacali che riguardano l'Italia? Forse 9, 10. E ora io non lo so perché in un primo momento avevate raggiunto un accordo solo coi confederali e poi successivamente si cercava di coinvolgere anche le altre sigle sindacali, però oggettivamente anche a gestire una trattativa in questa maniera credo che non fosse facile per nessuno. Le risulta però un'altra domanda le volevo fare, si parla di una ieri già di una telefonata tra Colaninno e Epifani, ora io non voglio entrare nel merito delle telefonate private, però insomma qui di privato c'è poco, c'è un tentativo di riaprire questa trattativa? Guardi, io le posso dire che mi auguro che ci sia. Avendo noi espresso una posizione, la posizione che le ho detto, la CAI allo Stato è l'unica cosa concreta che si è avvicinata dall'Italia, quindi come dire, se ci fosse in campo un tentativo si starebbe facendo esattamente quello che abbiamo chiesto, cioè quello di creare le condizioni perché l'accordo sia un accordo non solo da sottoscritto da tutti, ma accettato da tutti, che è una premessa importante, è un buon viatico per risollevare l'azienda. Le dico non solo, me lo auguro, ma faremo di tutto perché ci sia. Tra diciamo le tre ipotesi del tutto teoriche che adesso ancora ci sono in campo, cioè quella naturalmente del fallimento che tutti vorrebbero scongiurare, ma che ieri, stando alle parole del governo, che ricordiamolo attraverso il Tesoro, il commissario Fantozzi attualmente ha in mano la partita, è l'unico azionista dell'Alitalia, tra il fallimento, l'ipotesi di una riapertura della trattativa con la CAI ed eventualmente invece l'arrivo in extremis, cosa che una parte almeno dei lavoratori sembravano gradire maggiormente, cioè l'arrivo di una compagnia straniera, per esempio il ritorno dell'Air France o della Lufthansa, quale delle ipotesi le vede più realistica e quale sceglie? Non mi pare che noi siamo in condizioni di sceglierle, mi pare che l'unica cosa che possiamo fare è lavorare al massimo per escludere il fallimento, tutto il resto è un terreno sul quale vale la pena di misurarsi. Io poi personalmente ho l'idea che l'Italia deve risolvere i propri problemi innanzitutto, come dire, entro i suoi confini, non si può aspettare il Cavaliere Bianco. Allora, abbiamo sentito naturalmente e continueremo a sentirla la versione della CGIL, cioè di quella parte del sindacato che ieri sostanzialmente si è assunta la responsabilità, in qualche modo, non ieri, ma insomma con la rottura che è avvenuta, di questa rottura. E tra poco sentiremo anche invece Angeletti della UIL che ci dirà perché invece loro erano favorevoli a chiudere con la CAI. Oscar Giannino, direttore di Libero Mercato, buongiorno. Buongiorno. Al di là poi delle dinamiche anche intersindacali, che a volte sono anche difficili da capire, secondo te perché è fallita la trattativa e adesso cosa c'è in campo per l'Alitalia? Ma io credo che in campo per l'Alitalia ci sia molto poco, nel senso che anche il commissario straordinario Fantozzi ha chiarito oggi in una lettera al Corriere della Sera stamattina che in realtà lui aveva già personalmente sollecitato anche i presidenti, quindi i rappresentanti legali delle maggiori compagnie internazionali, Air France, Lufthansa, British Airways, accertandosi di persona se ci fosse anche un eventuale loro interesse, e scrive al Corriere della Sera Fantozzi che l'interesse non c'è a queste condizioni, e non mi stupisce. In queste condizioni credere che vi sia un qualunque vettore privato o ancora con capitale pubblico interessato a sedersi a un ipotetico tavolo significa non avere alcuna consapevolezza di come funziona il trasporto aereo, non solo nei suoi principi generali come segmento del business, ma in un delicato momento come questo in cui il trasporto aereo è sottoposto a un durissimo attacco di revisione di costi e deve rifare quindi i margini di efficienza in tutto il mondo. Ecco, e assistiamo ogni giorno a grandissime compagnie aeree di grandi nome e tradizione e che sono inutili fino al bilancio 2007 che sono costrette a rivedere la loro pianta organica e il loro operativo di volo perché devono fare i conti con costi accresciuti e quindi devono continuare a guadagnare e fanno razionalizzazioni molto pesanti. Quindi nessuno si siederà al tavolo, perché la prova offerta 6 mesi fa con l'epilogo della trattativa per cui Air France si alza e se ne va, e 6 mesi dopo con una nuova cordata privata che sia pur tra molto scetticismo, ma si era manifestata, e dopo 13 giorni di trattativa finisce allo stesso modo, e tutto questo non induce più nessuno a sedersi al tavolo. Io di questo sono ragionevolmente convinto, non perché sia pessimista, ma perché ci sono delle regole che valgono nel mondo del business. Quindi nessuno ci si siede per due ordini di ragioni. 6 mesi fa era soprattutto perché non era chiara, dopo una procedura durata un anno e mezzo, la chiarezza dello stato venditore, che aveva secondo me molto ciurlato nel manico, con regole non chiare, non aperte a tutti, ma a un solo soggetto. Adesso a questo si è aggiunto l'evidente fattore di cui stiamo parlando, cioè una mancanza di consapevolezza. A me non piace dare giudizi, poi soprattutto sulla pelle dei lavoratori, ma io mi limito a dire mi pare una mancanza di consapevolezza delle condizioni per le quali all'Italia è arrivata questo sfascio, e una mancanza di consapevolezza doppia per come il trasporto aereo viene oggi gestito in tutto il mondo. Da parte di chi? Beh, soprattutto da parte di chi era controparte di CAI in questa trattativa. Quando dico mancanza di consapevolezza, dico che appunto la reazione di giubilo di ieri è una reazione di giubilo, per quanto possa comprenderla per la disperazione, ma che esprime una totale mancanza di consapevolezza. Quindi a questo punto, da quello che risulta a me, i legali del commissario Fantozzi sono legali sia incardinati nel suo ufficio sia i suoi legali personali, perché ricordiamoci che il commissario Fantozzi poi non è che risponda al governo, il commissario Fantozzi per decreto esecutivo risponde innanzitutto al Tribunale di Roma, essendo depositario di delicati doveri che sono soprattutto quelli di tutelare al massimo i creditori, i fornitori di Alitalia. Quindi il commissario Fantozzi sta studiando tra le due strade quale sia preferibile, se quella che porta al fallimento vero e proprio o se quella di una graduale messa a terra dell'operatività, ma in termini di pochi giorni dall'inizio della prossima settimana, non certo settimane, perché il capitale è finito e quindi continuare a volare significa accumulare nuovi debiti e quindi tutelare ancor meno i creditori, e mentre realizza quella graduale messa a terra dell'operatività, procedere il più sollecitamente possibile alla vendita degli asset della vecchia Alitalia in maniera tale da accumulare appunto un po' di liquidità per iniziare a far fronte ai debiti. Ecco, questa secondo me è la vera alternativa. Chiunque dica no, c'è un'alternativa di cordate, riprendiamo, secondo me mostra quella mancanza di consapevolezza di regole chiare che per me è la cifra fondamentale di tutta questa vicenda, perché io invito poi anche un secondo a riflettere. È vero che nella vicenda ci sono i diritti dei 19.000 dipendenti di Alitalia, per carità, al centro c'è la dignità del lavoro, ma io sono d'accordo, però guardate che agli occhi di milioni di italiani al centro c'è anche un'altra questione. Dal 1986 a oggi, cioè da quando è stata classata, da quando è stato quotata sul mercato finanziario l'azione ordinaria Alitalia, a oggi, quindi 22 anni, se uno fa la somma di tutte le perdite, i ripiani, i fondi di dotazione, le ricapitalizzazioni ordinarie e straordinarie fatte dall'azionista pubblico da una parte, ci sottrae i dividendi che sono stati una sola volta in 22 anni e fa la somma equivalente, cioè tutto questo capitale investito o bruciato, se fosse stato impiegato in titoli del debito pubblico, e fa la somma finale di questa operazione, ottiene che Alitalia è costata al contribuente italiano 16 miliardi di euro, attualizzandole con euro di oggi, 16 miliardi di euro, ecco, agli occhi di milioni di italiani, oltre, e sottolineo oltre, quindi io non lo trascuro, il fattore della dignità del lavoro, c'è questo fattore centrale. 20 anni e 16 miliardi di euro di nostre tasse andati in fumo. No, cifre che naturalmente fanno girare la testa. Ma certo, fanno girare la testa, però, dovrebbero indurre a una qualche consapevolezza, perché dice la trattativa non c'è. Questo l'ha detto, per la verità, l'ha detto anche Solari, riferendosi per esempio alle scene di giubilo di ieri a Fiumicino, però naturalmente poi ognuno si assume le responsabilità dei propri ruoli. Invece Giannino, tornando sempre a ieri, ammesso che serva a qualcosa, io devo dire non ho del tutto capito, ma non è chiaro insomma il motivo poi davvero perché è saltata la trattativa. Solari diceva una questione di metodo, naturalmente ci sono di mezzo gli stipendi per esempio altissimi dei piloti, magari giusti, giustificati, ma sicuramente alti. Qualcuno diceva un contratto che presentava un profilo di flessibilità tale che avrebbe aperto sul mercato del lavoro italiano cose inaudite a cui non siamo in Italia forse ancora abituati. È così? Tu come la leggi? Guarda, innanzitutto su quest'ultimo punto non credo, perché in realtà sul mercato del lavoro italiano siamo, tra virgolette, non dico abituati, ma insomma dalla legge Treu in avanti abbiamo delle forme di flessibilità elevatissime che hanno avuto un notevole impatto nell'aumentare l'occupazione e quindi non è vero questa cosa che chissà quale flessibilità sarebbe stata introdotta, non è vero. Lì c'è un principio che la cordata privata diceva: noi vogliamo fare un'offerta come se fossimo una compagnia alla prima offerta di impiego, invece che solo ereditare i vecchi contratti di 22 anni. Principio molto opinabile, giustificato dalla CAI per il fatto di dover contenere a livelli comparabili a quelli di altre grandi compagnie i costi del lavoro rispetto al fatturato atteso. Ok, di fronte a questo, in 13 giorni di trattativa, per quello che abbiamo capito, ma mi sembra che ci siano tutti i dati, e come giustamente anche ricordato Solari adesso, per le persone di terra c'è la faccia in cui in realtà poi i sindacati confederali sono più forti, non sono certo forti tra i piloti, era stata ottenuta la diminuzione degli esuberi di quasi 1000 unità e un riconoscimento di un principio dell'invarianza del salario con qualche ritocco ma modesto, voglio dire, rispetto alle proposte che inizialmente aveva proposto la CAI. Per quello che riguarda invece i piloti, la rottura vera secondo me è arrivata quando all'ultimo incontro con la Ninno, a un certo punto, rivolgendosi esattamente ai due sindacati, anzi alle due associazioni professionali autonome, perché non vogliono essere chiamati sindacati dei piloti, ha fatto la chiarezza finale e definitiva, perché rivolgendosi a loro in riunione ha detto: guardate, cari rappresentanti dei piloti, bisogna che ci sia un punto di chiarezza. Perché i piloti, anche nel documento sottoscritto ieri e rinviato come controproposta alla CAI, non chiedono solo anche per loro il riconoscimento dell'invarianza retributiva, di fronte a retribuzioni molto più elevate di quelle del personale di terra, e mi si dirà, giustamente, i piloti hanno tutt'altra professionalità, benissimo, però stiamo parlando di retribuzioni che arrivano fino a 13.000 euro al mese, questo è il punto. A fronte di impegni lavorativi di molte ore annuali, anche di 150 o 200 ore inferiore a quelli dei colleghi di Lufthansa, tanto per dirne un altro. Ecco, ma oltre a questo principio di invarianza retributiva, in realtà la richiesta era un'altra, perché nel documento scritto ieri si dice: ci mettiamo d'accordo su questo come prima condizione, seconda condizione, ci rimettiamo a ridiscutere del personale, perché la vera richiesta implicita ed esplicita dei rappresentanti dei piloti è fondata sul principio di cogestione. Il principio di cogestione significa gli operativi, le rotte, le macchine utilizzate, sì, devono essere in qualche modo decisi anche da loro. Codecidono con noi. E questo al quale Colaninno ha detto: no, mettetelo una volta chiaro in testa. Da questo punto di vista, Colaninno e voi dipendenti. Voleva cambiare, ben usare l'imperfetto, rotta. Abbiamo forse ancora Solari in linea per qualche minuto. Non so se ha sentito Giannino, al di là delle considerazioni sui piloti, per cui lei ovviamente non può rispondere, sul resto della valutazione di come si è chiusa la trattativa, se vuoi replicare qualcosa siamo a ridosso della pausa. Volentieri, mi scuso, non sono riuscito a sentire tutto, però due battute. La prima, sulle ultime cose che stavate dicendo circa il ruolo dei piloti, io sono d'accordo con Colaninno e l'abbiamo detto: in un'azienda ci deve essere la distinzione dei ruoli, per l'appunto, l'azienda è l'azienda, il sindacato è il sindacato. Ogni momento di commissione è un momento di confusione, quindi su questo non ho dubbi. Circa la dinamica, quel che è stato e quel che è all'Italia, vorrei provare a stabilire anche qui un punto di verità, per essere onesti. È vero, l'Italia è un'azienda che negli anni ha perso palate di soldi. Sottolineo che quel che perde all'Italia, se noi decidessimo che gli stipendi di Alitalia fossero dimezzati, cioè se quello che ne prende 1.200 ne prendesse 600, se i piloti invece che 100.000 euro l'anno ne prendessero 50.000 euro l'anno, Alitalia perderebbe ancora. Ora, mi pare evidente che un'azienda che ha questi numeri, c'è qualcosa che non va, e questo qualcosa che non va non è riferito al costo del lavoro, tanto che tutti ci riconoscono che il costo del lavoro all'Italia è particolarmente basso, è comunque circa un 30% più basso di quello che è il costo del lavoro in France, e in France guadagna. È evidente che all'Italia è un mix di errori che si sono accumulati e che hanno portato a queste condizioni. Noi crediamo sia possibile cambiare rotta, per l'appunto. Continuiamo ad essere a disposizione per chiunque voglia provarci. Anche se naturalmente, insomma, è bene ricordare la situazione in cui ci troviamo, davvero a un passo, forse anche al di là del fallimento. Prima però salutiamo il nostro nuovo ospite, Franco De Benedetti, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Da un punto di vista politico, abbiamo detto delle accuse rivolte dal governo alla CGIL, ai piloti e anche alla sinistra per avere in qualche modo boicottato questa trattativa della CAI con i sindacati. E centrosinistra, Partito Democratico, che è rimasto particolarmente legato alla vecchia soluzione che era stata proposta dalla Air France, continuando a dire che quella soluzione era sostanzialmente migliore di quella poi presentata dalla CAI. Che valutazione si può fare oggi, fallite entrambe le trattative, ammesso che serva a qualcosa, De Benedetti? Era davvero meglio allora la soluzione Air France, che poi, ricordiamola, anche lì i sindacati non l'avevano accettata? Guardi, se vogliamo dire quella che era meglio, allora dobbiamo tornare un pochino indietro. La migliore era certamente quella con la KLM, di alcuni che anni fa, avrebbe data all'Italia, mi sembra, il 30% della compagnia congiunta. Secondo me andare, detto che Berlusconi ha usato la vicenda d'Italia per scopi elettorali e ha fatto fallire e ha contribuito a fare fallire l'operazione con Air France, che se fosse stata conclusa a quest'ora non staremmo parlando di questi problemi. Ciò detto, però, questo va archiviato col passato, traendo una conclusione, e cioè che tutte le volte che c'è stata una soluzione che si è prospettata è fallita per colpa del sindacato o dei sindacati. Tra l'altro, quali sindacati? Poi è anche abbastanza strano, perché ci sono le grandi centrali sindacali accusano addirittura il management di aver organizzato delle specie di sindacati gialli per appoggiarsi a loro. Quindi, diciamo, il problema sindacale è all'origine è la causa di questi 16 miliardi persi in questi anni di cui parlava Giannino e del disastro in cui ci troviamo oggi. Questo è il punto fondamentale. Bisogna che questo fatto venga riconosciuto e che non si ceda di fronte a questo. Trovo abbastanza strano che la CGIL dica che praticamente è la resistenza dei soli piloti. Beh, allora per quale motivo non sono stati isolati i piloti, che tra l'altro pretendono di essere non un sindacato ma un'associazione di categoria? E credo che si colga nel giusto dicendo che quando Colaninno ha posto questo problema, che è un problema fondamentale per la gestione di un'azienda, e ora è all'origine, probabilmente è numericamente una piccola quantità, ma che ha una responsabilità enorme, secondo me, nell'avere fatto coalescere e fatto precipitare questa situazione. Adesso quali sono le ipotesi in campo? Davvero resta solo il fallimento, come dice il governo? Ma c'è ancora qualcosa di peggio, secondo me, che bisogna tenere presente, che potrebbe anche essere possibile. Il fatto, io credo che nella società delle immagini rimangano le immagini di queste minoranza sicuramente di manifestanti che giubilavano e esultavano per il fallimento della trattativa, sia pure con tutte le giustificazioni dovute alla tensione di questi giorni che esplodono eccetera, comunque rimane questa immagine nella mente, nella memoria, e rimarrà a lungo nella memoria. C'è una cosa da dire: se la colpa non è solo dei salari dei sindacati e dei trattamenti sindacali, ma è anche colpa dell'Italia, allora è colpa di chi è la colpa? La colpa è del fatto che questa azienda è un'azienda di Stato gestita da management scelto dalla politica, e nel rapporto tra politica e sindacato questo è quello che ha rovinato l'Italia. Allora questo deve essere chiaro, perché secondo me quelli che ieri esultavano sperando che un bel giorno si ritornasse alla vecchia storia, cioè che il governo in qualche modo intervenisse, non diciamo nazionalizzasse, ma in qualche modo intervenisse con l'Italia. Ecco, le cose da evitare sono due. Primo, che il sindacato alcuni sindacati continuano a pretendere di volere dettare loro e di fare loro la politica dell'azienda. Secondo, che lo faccia lo Stato, perché sono due i fallimenti. Benissimo, sentiamo anche qualche ascoltatore. Come anticipato, cominciamo con Maurizio, che ci chiama da Vercelli. Buongiorno. Buongiorno, io ho una domanda con una richiesta di piccola spiegazione. Non ho sentito in questi giorni, nei quali seguo con attenzione la vostra trasmissione, nessuno parlare dell'eventuale creazione di una public company, cioè che queste persone che vedevo giubilare al fallimento della trattativa magari dedicassero un po' dei quattrini che gli sono stati elargiti in questi anni con molta generosità in maniera da rischiare, mettere a rischio anche una parte del... Cioè lei intende, public company intende il fatto che i lavoratori mettessero in qualche modo una quota anche loro nella futura società? Assolutamente, per aumentare la loro gestione e controllo all'interno del consiglio di amministrazione e per essere partecipi al rischio, anche in parte creato dal fatto che nel corso degli anni si è goduto di privilegi assolutamente. Sì, è un'ipotesi di cui si era parlato, poi forse è sparita, anche se non credo che sarebbe stata risolutiva. Magari su questo sentiamo dopo anche Giannino e De Benedetti. Prego, con Patrizio che chiama da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Io sono uno di quelli che era lì e che ha legittimamente esultato, se mi permettete, alla trattativa fallita con CAI. E comunque quello che volevo dire è che ieri non c'erano solo piloti e assistenti di volo, è una grossissima mistificazione. C'eravamo tutte le professionalità di Alitalia, Eruan e SNCM. C'erano anche i colleghi di Roma, perché Senta, la sentiamo male, non so se si vuole spostare o se vogliamo provare a richiamare, perché è interessante il discorso che lei sta facendo. Io però non ho capito che cosa c'è nel fondo dei vostri cuori, voi che avete esultato ieri, cioè cosa sperate? Guardi, il punto era uno, il contratto di lavoro che è stato proposto a tutti, a piloti, assistenti di volo e a colleghi di terra, era semplicemente un contratto capestro che, tra virgolette, ci avrebbe praticamente reso schiavi, d'accordo? A colleghi di terra che guadagnano mediamente 800 euro al mese, gli si diceva di perdere il 40% dello stipendio. Al sottoscritto che con 883 ore di volo l'anno scorso e 19 anni di anzianità ha avuto un CUD di 24.000 euro, va bene? Quindi gli stipendi faraonici li hanno visti solo i giornalisti, scusatemi, ma io non ce li ho mai avuti e ho volato tanto, mai aprito un giorno di malattia l'anno scorso, se non facendo le mie legittime ferie. Quindi voglio dire, cioè, mi avevano chiesto di perdere il 45% del mio stipendio. Tra l'altro, lei perdeva la metà dello stipendio? Esattamente. Tra l'altro anche il fatto che hanno detto un abbassamento dei salari del 6-7% è una corbelleria, perché noi avremmo dovuto essere riassunti a zero. Quindi anche mantenendo gli stessi parametri e le stesse tabelle contrattuali di adesso, va bene, noi saremmo stati riassunti a zero, con anzianità zero, avremmo perso tutta la nostra anzianità. Io ho 19 anni, qualcun altro ce n'ha 20, 25, 30, d'accordo? E su quelle tabelle ad anzianità zero saremmo stati poi penalizzati di un ulteriore 7%. L'anzianità zero per me significa già un abbattimento del 35%, capisce? Quindi sarebbe stato un 35 meno un 7. Ho capito, sono dei meccanismi attraverso i quali lei dice indirettamente però si abbassava il salario in una maniera intollerabile. Certo è che io non ho motivo di dubitare che lei non dica la verità, ma tra le cifre che sono circolate, le valutazioni che sono state fatte e quello che lei dice, naturalmente c'è una differenza un po' incomprensibile. Mi domando allora perché gli altri sindacati avrebbero dovuto accettare delle condizioni per gli stessi lavoratori di questo tipo. Ma lo chiediamo tra poco ad Angeletti, buongiorno, che ci ha raggiunto, lo salutiamo, buongiorno. Buongiorno. Ieri lei ha avuto parole molto pesanti, ha detto la compagnia Alitalia è morta e qualche mio collega si appresta a fare il becchino. Chi è il becchino, la CGL o i piloti? No, il vero problema è questo, che intanto volevo rispondere all'unico ascoltatore che ho sentito, è quel signore che sosteneva che l'accordo sui contratti avrebbe previsto una perdita del 30-40% delle loro retribuzioni. Quello che io ho visto scritto sul contratto è una clausola che dice che gli scatti venivano conservati ad a personam, quindi ognuno i suoi, e che comunque sia la retribuzione a parità di ore volate non poteva diminuire rispetto all'attuale del 6-7%, e mi sembrava scritto in lingua italiana molto chiaro e perentorio, tale da essere, come dire, fatto rispettare da qualunque giudice di questo paese. Il problema vero è che a me sembra che l'azienda sia fallita, nel senso che non ha più i soldi per funzionare. Quindi temo che molto rapidamente cesserà di funzionare, gli aerei cesseranno di volare e le persone verranno messe in mobilità, non quella mobilità che abbiamo contrattato che prevede in via eccezionale praticamente solo per il personale di Alitalia l'80% dell'attuale retribuzione per 7 anni, ma una forma di mobilità che prevede che dopo 2 anni c'è il licenziamento e nel frattempo verranno erogati al massimo un po' più di 1.000 euro. E mi sembra che questa sia la drammatica questione nella quale ci troviamo e non si può purtroppo far sì che la realtà sia esattamente come ci piace. La realtà è quella che è: l'azienda è morta e di fronte alla possibilità che potesse risorgere bisognava scegliere. Non c'era un'altra scelta, c'era esattamente questa. Da una parte la prospettiva della liquidazione della società, fallimento, la vendita all'asta di ciò che c'è, di ciò che rimaneva, e dall'altra la possibilità di fare in modo che l'azienda potesse risorgere, sicuramente con sacrifici per qualcuno molto gravi, soprattutto per gli esuberi, quelli erano i maggiori, le persone che sarebbero state maggiormente, che avrebbero sopportato il maggior costo, ma una possibilità che almeno la gran parte dei lavoratori potesse conservare un posto di lavoro e noi continuassimo ad avere un'azienda di trasporto aereo. Questa era la scelta e bisognava, secondo me, essere così responsabili da fare la scelta meno dannosa. Angeletti, cosa rispondete a chi in qualche modo mette nel mirino i sindacati, vi accusa di avere anche a volte ragioni inconfessabili, questioni di rappresentanza? Perché insomma è vero che voi questa volta eravate tra quelli che avevano detto sì, la CGIL si è assunta la responsabilità di rompere, però la trattativa con l'Air France invece l'avevate fatta saltare, voi della UIL in particolare vi eravate per primi sfilati. Cosa rispondete a quella parte degli italiani che, osservando questa vicenda, con un paese in recessione, come è stato certificato ieri dall'ufficio studi di Confindustria, vede sostanzialmente i sindacati dire sempre no a qualunque ipotesi? Adesso non vorremmo essere accusati per aver detto sì. Io parlavo, per quanto riguarda voi, della vicenda Air France. Nella vicenda Air France noi avevamo detto no per un motivo molto semplice, l'abbiamo detto esattamente lo stesso giorno in cui ci siamo alzati dal tavolo della trattativa, che Air France, al di là del fatto che il piano industriale prevedeva l'assorbimento dell'Alitalia a Air France e la scomparsa della stessa compagnia, ma avevamo posto un problema all'azienda durante la trattativa. La trattativa che stiamo facendo è risolutiva o la vostra scelta dipenderà dall'opinione del prossimo governo? Perché in questo caso è ovvio che stiamo facendo una trattativa falsa, quindi aspettiamo che ci sia un nuovo governo e poi riprenderemo la trattativa. Siccome Air France ci ha detto no, questo che noi eventualmente firmiamo sarà comunque sottoposto ad un'ulteriore valutazione dopo che ci sarà un nuovo governo in Italia, noi abbiamo detto bene, allora ci rivediamo dopo che ci sarà un nuovo governo, e questo è stato il motivo per il quale noi ci siamo alzati e ce ne siamo andati. Giannino, nessuno sa esattamente quanti soldi abbia in cassa l'Alitalia, non credo che Fantozzi l'abbia reso pubblico, almeno non mi risulta. Stando alle ultime valutazioni, quanti giorni davvero, perché non credo che altri soldi pubblici possano entrare, quanta autonomia può avere l'Alitalia? Da quello che ho appreso ieri sera dopo il colloquio e dopo l'incontro tra Fantozzi e Gianni Letta, si tratta di una cassa bastevole a garantire l'operatività che per il momento il governo ha chiesto al commissario di provare a garantire nella massima forma possibile, a cominciare dalla prossima settimana, per soli pochissimi giorni. Dopodiché, ripeto, graduale messa a terra dell'operatività, in maniera graduale ma assolutamente obbligata di fronte al prevalente dovere del commissario di fronteggiare la tutela dei creditori. Sappiamo tutti che era già stata predisposta una lettera per oltre 4.200 lavoratori per i primi turni di cassa integrazione, ma quella era stata predisposta a prescindere dall'esito della trattativa, e naturalmente quella è solo una misura del tutto iniziale, perché poi si va verso la mobilità generale di tutti i dipendenti, esattamente come ha detto Angeletti. Naturalmente, sottolineo, questa procedura della messa a terra dell'operatività non è solo imposta dal motivo contabile e dal dovere del commissario rispetto ai creditori. In queste condizioni bisogna anche pensare di dover procedere il più rapidamente possibile alla vendita di asset della vecchia compagnia fallita, e tra questi, sottolineo, prioritariamente ci sono gli slot di volo della vecchia compagnia, in maniera tale da consentire ai nuovi vettori che parteciperanno, per così dire, a un meccanismo di asta, sia pure tutelato da norme internazionali molto stringenti. Per esempio, faccio notare a chi spera che Air France si possa risedere: Air France, secondo il meccanismo attuale internazionale, si troverà a ereditare, senza colpo ferire, quasi automaticamente il maggior numero degli slot europei. Cioè, in sostanza, spiego, anche se è stato chiarissimo, invece di sedersi al tavolo per spendere soldi per comprare all'Italia, le compagnie che stanno ai bordi a bordo vasca potrebbero tranquillamente prendersi direttamente gli slot, cioè gli spazi aerei disponibili, senza fare altri sforzi. Un'ultima cosa vorrei chiedere però a Franco De Benedetti: c'è spazio perché i soci CAI, per quello che lei ha potuto capire, mettano sul piatto, abbiamo davvero 30 secondi, un chip, un qualcosa in più per richiamare i sindacati? Non credo che la questione sia una questione di una lira in più, una lira in meno. Io credo che il problema è quello che è stato posto, cioè chi comanda in azienda. Su questo tema io credo che non si può transigere, perché questo è fondamentale per il buon andamento dell'azienda stessa. Quindi questo è il punto cruciale, ed è un punto sul quale non credo che si possa transigere. Sicuramente poi, se si vuole, la possibilità tecnica o anche negoziale di ricominciare, di riannodare i fili è c'è sempre, ma io credo che su questo punto sarà di, almeno mi auguro che non si transiga su questo punto, perché benissimo, vorrebbe dire transigere su quello che ha causato la morte dell'Italia. Grazie ai nostri ospiti, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè in regia, viva voce @radio24.it. L'appuntamento è per lunedì prossimo.